Perek Bet, Mishnah Bet, sì. La Mishnah dice: Hasomech sukato behar e hamita. Se una persona appoggia la propria sukkah, si intende appoggia la parte superiore sul letto. Cosa significa sul letto? Come vedete nell'immagine a sinistra, il letto che è fatto con i due lati alti, come si chiamano in italiano? Le due sponde sono alte, la testata è ai piedi, e tra le due parti mette sopra, appoggia, assomeja, appoggia la sukkah. דafka מדובר פה במיטה או שמסמך את זה בנזה נדנדה או משהו? דafka מדובר על מיטה או משהו דומה. Si parla di letto o una cosa simile. Perché? Perché il caso sarebbe che se si sposta il letto, si sposta la sukkah. Bello. Si toglie la sukkah. Allora la domanda è: se una sukkah che quando io sposto il letto si sposta tutta la sukkah, se è comunque valida? Se può essere considerata una sukkah, cioè un tipo di casa, o se è un letto e non può essere considerato una sukkah. Non dovessi spostare, o il problema non si pone se non, so già che non lo sposto. No. La domanda è... Se è possibile lo spostamento. Esatto. Questa è la domanda. Sì, sì. È considerata una sukkah? Perché se io sposto le sponde del letto, cade il tetto, certo. Allora non so se è considerata una sukkah. La Mishnah dice ksherah. La sukkah è kasher, comunque. Mentre invece Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, im einaya chola lamod bifnei atzma, se la sukkah, lo schach, il tetto della sukkah, non rimane in piedi da solo, senza le sponde del letto, allora no, psula, non è kasher per secondo Rabbi Yehuda. Come? Secondo Rabbi Yehuda non è kasher. Vi ricordate che Rabbi Yehuda è dell'opinione che una sukkah deve essere fissa, non una cosa temporanea. Vi ricordate che Rabbi Yehuda ha detto può essere ancora più alto di 20 amot e altre opinioni che riprendono tutto lo stesso filo di pensiero. Vero? Mentre invece, secondo la maggioranza dei Chachamim, una sukkah così può anche essere kshera. Alla fine chi seguiamo? I Chachamim. Senza di lui avremmo avuto un libretto così. Poi la Mishnah fa un altro caso. Sukkah hameduvlelet. Cosa significa hameduvlelet? Significa che mebulbelet, è confusa. Cosa vuol dire confusa? Vuol dire che il tetto della sukkah, lo schach, non è tutto piatto, un piano di schach. È uno alto, uno basso, uno alto, uno basso, uno alto, uno basso, un ramo alto, un ramo basso. E così tutta la sukkah non è ordinata. Allora, per questo motivo, visto che è fatta in questa maniera, entra più sole, sì. Perché c'è più spazio tra un ramo e l'altro. Ma se fosse la stessa quantità di sechach, la stessa quantità di rami sul livello, se fosse tutto piatto, sarebbe più ombra che sole. Visto che è posto in questa maniera, c'è più sole che ombra. Allora la domanda è se è kasher o non è kasher. E la Gemara dice, la Mishnah dice, in questo caso, sukkah meduvlelet, e poi aggiungiamo un altro caso subito, veshetzilata merubah mechamata, oppure una sukkah dove l'ombra è maggiore rispetto al sole, che problema c'è? Serve che sia l'ombra più del sole. No, sta parlando di una sukkah in cui lo schach, quello che è usato per il tetto, è molto fine, sono dei rami o dei rametti o delle erbe molto fini, quindi sì, c'è più ombra che sole, ma si rischia in qualsiasi momento che la situazione possa cambiare, perché non è una cosa molto, è fragile. Diciamo, è molto fragile. Ciò che è stato usato, allora in entrambi questi casi la Mishnah dice kshera. In questo momento la Mishnah, la sukkah è kasher. Sia che non sia livellato lo schach, sia che sia uno schach molto fine e molto fragile, se adesso c'è più ombra, è kasher. Quindi scusa, quindi è sempre buono. Sì. Fino adesso abbiamo detto è sempre buono in questo caso. Quindi allora sì? Ci può anche essere la possibilità che una sukkah all'inizio nella sua costruzione di è kasher e poi nel corso può diventare Assolutamente sì. non kasher. Beh, se io ho una sukkah e il vento viene e mi toglie lo schach, non è più kasher? Oppure, se ho uno schach con delle foglie, e queste foglie fanno sì che ci sia molta ombra, ma se si seccano queste foglie e non danno più quell'ombra che davano, allora può darsi che non è più kasher? E come presidente, allora a me se mi capita di colla Moed la posso aggiustare, ma se mi capita di Moed e Non la puoi aggiustare? non puoi entrare, non puoi non usarla posso come quindi mitzvah. usarla come mitzvah. Esatto. Però se magari Forse ci sono dei casi, delle situazioni in cui si può coinvolgere un non ebreo ad aggiustare, però bisogna vedere il caso specifico e cosa c'è da fare e come bisogna dirglielo, eccetera. No, prima Ora, che entri la festa uno deve dare un'occhiata per sicurezza, ecco, in Sì, questo caso. sì. Dall'altra parte, se lo schach è molto fitto, se c'è tanto schach, c'è tanta ombra, allora la Mishnah dice così. Vediamo il testo. Hame uba. Vedete il testo? Me uba, me ube, viene dal termine av. Av significa fitto, grosso. Mo etzim, Hame ube che min bait. Se lo schach è così fitto che sembra una casa, sembra un tetto normale per quanto è fitto. Af al pishe ein hakochavim nirim mitocha. Nonostante che non si può, possono vedere le stelle dall'interno della sukkah, kshera è sempre kasher. In altre parole, da qui capiamo che è bene poter vedere le stelle, ma che non è come dire, tassativo, obbligatorio. Anche se non si vedono le stelle, è kasher. Allora lo schach può anche essere molto fitto, uno non deve aver paura, è troppo fitto, non sarà kasher. Se la persona sta in dubbio se è troppo poco o tanto, è meglio tanto che troppo poco. Prossima Mishnah. Come? No, è una tradizione che era generale. Da piccoli nelle scuole, insomma, la genericità con la quale si dicono certe cose, senza volere, per carità, Sì, ma per certo, questo io ti lo rimangono a vita. Sì. Io sono sempre rimasto dell'idea Che è di questo obbligatorio fatto di vedere le vedere, stelle. Non c'è un vero, obbligo ho di vedere pensato adesso le alla stessa stelle. cosa. Che Sì, proprio in ho tutte le visto scuole professori, i gliel'hanno. ragazzini dovrebbero essere, dare quelle quattro parole in più per carità, non è una. No, no. Però rimangono. Qual è la Sono quelle domanda? sukkah che praticamente montano Sì. come una rete sopra la struttura e poi sopra la rete ci poggiano Adesso le vegetali. vedremo la halakhà di questa cosa, parleremo nella Mishnah di questo. Ora, un altro caso, la Mishnah dice nella Mishnah Gimel. Haose sukkato berosha agala. Se una persona fa una sukkah su un carro, Al tram Shmone. o sul tram numero 8, no, tram sagur lemala, lemala, o su un camion, ok? O berosha sfinah, o sulla nave, su una barca, quindi è mobile. Kshera? La sukkah è kasher, anche se fosse mobile in questa maniera. Stiamo parlando di una sukkah che se fosse su un luogo normale non cadrebbe a causa di un vento normale. Se ha quella stabilità, può anche essere valida messa su un carro o su una nave. L'area del movimento In Amishnah perché l'area Omeret. del movimento è allineabile al vento normale se stesse per terra. Esattamente. Non so Grazie dove Piero. Aspetta. Ve olin la be yom tov. E si può salire anche di Moed. Grazie. Si può salire anche di Moed su questa sukkah. In realtà, la Mishnah non doveva dire questo. Perché non si potrebbe stare di Moed? perché Sarebbe pshita shefshar lalot be Moed. È semplice. Il come motivo per cui la Mishnah dice questo, come la barca, il motivo per cui la Mishnah dice questo, perché più avanti c'è un altro caso dove non si può salire di Moed. Allora la Mishnah fa il contrasto. Ora vediamo l'altro caso. fin qui si può salire per Sì. Se una persona fa una sukkah berosha ilan su un albero, ovviamente che non è coperto dai rami dell'albero, però in una maniera che L'albero è il supporto per la sukkah, come la figurina. Come la figurina. O al gabbei gamal, ok? Oppure su un cammello, quindi su un animale. Mette una piccola sukkah sul cammello o sull'elefante, quello che è. Kshera, la sukkah stessa è kasher in questi due casi, l'albero o l'animale, ma ve'en olin la beyom tov, non si può salire sopra questa sukkah di Moed, solo di Chol HaMoed. Perché? Perché di Moed non si può cavalcare su un animale e non si può salire sugli alberi. Perché c'è un sospetto, una paura, un timore, tra virgolette, che qualcuno stacchi un ramo, sia per cavalcare che per salire sull'albero. Se lo evo la caja te le oride anaf. O per sbaglio. Ma avdel? זאת אומרת, על בדיוק. העגלה הזה, וזה... על העגלה. עגלה. Esatto, la differenza tra la prima parte è che nel primo caso stiamo parlando della sukkah che è mobile, ma si trova su una situazione dove tu potresti salire di Moed. Però adesso è fermo. Che cosa? Il camion. La prima situazione. Sì, il camion deve essere fermo. Se io come metto una sukkah su un camion e la fermo qua, si può salire sulla sukkah durante Moed? Non è un problema. Sulla nave in navigazione si applica la regola della nave in navigazione di Shabbat o di Moed, senza entrare nel discorso della Sukkah, che uno può stare sulla nave che sale da prima, tutte le regole che esistono. Sì, sì, bravo. Però per la Sukkah stessa è valida. Invece sull'animale e sull'albero, che a prescindere non si può salire sull'animale e sull'albero di Shabbat e di Moed, quindi anche per Sukkah non si può. È valida per certi giorni, altri no. Esatto. Ora, un altro caso. Shtayim Bailan. Se due delle pareti della Sukkah sono sull'albero, ve'achat bide Adam, e una delle pareti è tenuta da qualcosa fatto dall'uomo, come in questa figura in realtà. Due delle pareti sono tenute dagli alberi e una parete bide Adam, che sì, è fatta dall'uomo. Oppure, o shtayim bide Adam, oppure fatte dalla persona. Ve'achat bailan, una parete che si regge con l'albero, ok? In tutti questi casi, kshera, la sukkah è kasher di per sé, ma comunque ve'en olin la biyom tov. Comunque, anche se ha una o due pareti totali che non si appoggiano all'albero, è comunque vietato salire di Moed, perché, visto che quando ci sono degli alberi che sostengono una parte della sukkah, si è abituati a mettere le proprie le proprie cose che si appoggiano sull'albero, e allora questo è vietato di Moed, perché come dicevo prima si può arrivare a togliere qualcosa dall'albero, un ramo o qualcosa, e quindi non si può usare un albero di Moed, e per questo timore qui è vietato salire sulla sukkah che si tiene uno, anche una sola parete, o due a maggior ragione, su un albero. Invece, shalosh bide adam, se sono tre pareti fatti dalla persona, ve'achat ba'ilan, e una quarta parete che si sostiene dall'albero, sull'albero, allora kshera, la sukkah chiaramente è kasher, ve'gam ve'olin la biyom tov, si può anche salire di Moed, visto che la sukkah sarebbe valida anche senza la quarta parete, allora la consideriamo una sukkah totale, che non necessita di avere il servizio dell'albero, anche se c'è, lo consideriamo già una sukkah senza, e è permesso salirci anche di Moed. Anche se quella parete è portante, cioè se che senza quella parete non potrebbe esistere la sukkah? No, no. Stiamo parlando che ci sono tre pareti che sostengono la sukkah, e la quarta parete è in più. Se la sukkah si basa su quella quarta parete, allora non ci sono tre pareti. Ok. Non consideriamo che ci sono tre pareti. Tre pareti autonome a sostenersi. Insomma. Esatto. Che tengono la sukkah. Poi dopo non ho. Ecco la regola. La Mishnah dice, Zeh HaKlal, questa è la regola generale. Kol shenital ha'ilan, in ogni caso in cui se fosse tolto l'albero, La sukkah rimarrebbe, vichola la mod bifnei atzma, e le pareti fatte dalla persona sostengono la sukkah anche senza l'albero, allora kshera, allora la sukkah è kasher, ve olin la beyom tov, si può salire di moed, ma se appunto tu, se tu togliessi l'albero, la sukkah cadrebbe, allora non ci si può salire di moed, anche se ci sono tre altre pareti. Ok? Okay. Sì. La sukkah all'ombra dell'albero. Sì? Ricordo, abbiamo detto sotto l'albero è pasul. È pasul, sì, perché non sta sull'ombra dello schach, sta all'ombra dell'albero. Per cui in questo caso, fermo restando. Quello che stiamo parlando qui di alberi è solo che sostengono le pareti, esatto, non sì. Che no, no, sovrappongono sopra la sukkah. Scusa, abbiamo sì? Tutti questi casi, la barra era su salire o non salire, utilizzarlo meno di Moed, ma in questi stessi casi. Fuori dal Moed comunque sono strutture che abbiamo visto utilizzabili per la mitzvah da entrare, fare la berakah, fare le... Fa tutti. Quando abbiamo detto l'elemento guida è stato salire o non salire di Moed. No, non era l'unico elemento guida. Il primo elemento guida è se è kasher o pasul, se la sukkah è kshera o se è psula. Ma in concreto quante pareti di guida? Minimo tre pareti. Però un attimino, se è pasul o kasher, poi quando è kasher, in alcuni casi è kasher, ma non si può salire di Moed per un altro motivo, non per un motivo di kasherut e la sukkah. E quando noi abbiamo detto, quando noi abbiamo detto ve'en olin la be'moed, che non ci si può salire durante il Be'yom Tov, quando è Moed, è per un motivo a parte, ma la sukkah stessa è kasher. Quindi ci sono due... regole da vedere. Primo, se la sukkah è valida, la prima cosa è, di per sé, e sempre c'è scritto kshera, sul camion, sull'animale, sul camion, sugli alberi, una fatta dal sul camion è diverso, no? Dall'animale. Sul camion è kasher, si può salire anche di Moed. No, dicevo solo, lasciando da parte l'aspetto, se utilizzando quello di Moed, circa la sukkah valida, che è valida quell'altra, sì. E anche questa qui appoggiata con sono una, tutte con una valide figurina, a parte okay. Mi si erano sovrapposte, sì, l'unica che abbiamo detto non è valida è se quando c'era il fatto che se no c'è... tutte queste abbiamo detto valide, solo Rabbi Yehuda diceva che se la sukkah non si tiene da sola senza le sponde del letto allora non è valida, ma ma tutte sono valide, solo che in alcuni casi non ci si può salire di Moed. Per quello, allora, sono tutte valide, quindi tutte buone anche a parte il Moed. Per la mitzvah si possono utilizzare nei giorni di mezzo, per esempio. Esatto. Allora, Mishnah Dalet. Haose sukato bein ha'ilanot. Colui che costruisce una sukkah tra gli alberi. In modo che, come la Mishnah spiega, ve ha'ilanot defanotla. Gli alberi stessi formano le pareti della sukkah. Ovviamente, di nuovo, senza sovrapporre da sopra sul tetto, se no non sarebbe valido, non sarebbe neanche una domanda. Allora la Mishnah dice kshera. La sukkah è kasher. Perché la sukkah è kasher? Abbiamo detto che in caso degli alberi è meglio evitare di Moed, perché c'è il problema che forse stacchi un ramo. Allora la Gemara spiega, quando commenta questa Mishnah, che si tratta di casi specifici, non ogni caso. Si tratta che gli alberi sono alberi forti, ok? E poi che sono, o se non sono forti, se sono alberi meno importanti, ma che siano stati legati tra di loro per formare la parete, quindi fermati, diciamo. E anche... se ci sono degli spazi tra gli alberi, questi spazi sarebbero stati riempiti con della paglia o simile che riempiono gli spazi vuoti e che non si spostano questi alberi, quindi non si muovono con il vento. E in questo caso, se gli alberi formano le mura, le pareti, allora è kasher. Ma senza queste condizioni, come sono spiegati nella Gemara, non sarebbe kasher. La Mishnah ora aggiunge un'altra halakha riguardo chi potrebbe essere esente dalla mitzvah della sukkah. La prima cosa è shluchei mitzvah, coloro che sono inviati per fare una mitzvah. Per esempio, se vanno durante il Moed, c'è una mitzvah di andare a trovare il proprio Rav, simile alla mitzvah dell'Aliyah alla Regel, di farsi vedere al Beit HaMikdash, allora c'è anche la mitzvah di andare al proprio maestro. E se per nel viaggio non c'è una sukkah, o comunque nel viaggio facendo una mitzvah sono esenti di andare a cercare una sukkah. Possono mangiare senza dare una sukkah. Oppure che vanno per fare un'altra mitzvah, per esempio per riscattare qualcuno che è in prigionia. E patur, esenti dalla mitzvah. Pturin, ma perché la regola è in generale, se ti occupi di una mitzvah, sei esente di un'altra mitzvah. Ok? Ovviamente, se è possibile fare entrambe le mitzvot senza un recarsi, un disturbo particolare, allora sei obbligato a fare entrambe. Vuol dire, se per strada c'è una sukkah, non è che devi evitare la sukkah, puoi entrare nella sukkah a mangiare. Anzi, devi. Però se richiede una preoccupazione o più tempo o più disturbo, allora sei esente. Porterebbe fuori strada dalla mezzana per cui sta viaggiando. Esattamente. Cholim, persone che sono malate, anche se non sono in pericolo, un mesham shehen e coloro che li servono, che assistono i malati, pturin minasuka, anche loro sono esenti dalla mitzvah della sukkah. Perché una persona che soffre di stare, potrebbe soffrire da stare nella sukkah, è esente da stare nella sukkah. Poi la Mishnah dice: Ochlin veshotin arai chutz la sukkah. È permesso per tutti, si mangia, è permesso mangiare e bere. Arai significa letteralmente temporaneamente, significa non una cosa fissa, una seudà. Se una persona ha fame, per togliere la fame, per togliere la sete, è permesso mangiare fuori dalla sukkah in questo caso. E se si mangia un farinaceo deve essere meno della misura dell'uovo, del volume dell'uovo, che è due volte il kasai, due volte quello dell'ulivo. Come il discorso fatto per il pane. Sì, esattamente. E quindi questa è la regola generale che riguarda chi è esente e chi non è esente dalla mitzvah della sukkah. Allora, la Mishnah ora racconta una storia per indicare che chi vuole essere più rigoroso, l'Achmir, chi vuole essere più rigoroso con se stesso e non vuole mangiare neanche una cosa, tra virgolette, temporanea fuori dalla sukkah, è permesso essere rigoroso. Non è considerata una cosa troppo esagerata, o a volte si dice in alcuni casi non essere troppo rigoroso perché sembra presunzione, io arrivo a questo livello. Qui in questo caso, se uno volesse essere rigoroso su questo, non è considerata una problematica. Anzi, la persona sarebbe lodata se lo facesse. Qual è la storia? Ma se ve violò il Rabbi Yochanan ben Zakkai litomet al tafshil. Portarono a Rabbi Yochanan ben Zakkai qualcosa per assaggiare, per gustare, non per mangiare, ma per assaggiare la pietanza. Oppure il Rabban Gamliel, anche successe accadde con Rabban Gamliel, che gli diedero shtei kotavot, due datteri, udlishel maim, e un secchio, comunque un bicchiere d'acqua, che sono dei volumi e delle cose che non richiedono per la regola che dovrebbero andare nella sukkah. Ve'amru, e in tutti e due i casi, sia Rabban Yochanan ben Zakkai che Rabban Gamliel, dissero ha'allum la sukkah, portateli alla sukkah e lì assaggeremo, e lì assaggerò. Erano due casi diversi, però li abbiamo citati insieme. Due storie diverse, che in entrambi i casi questi grandi chachamim hanno detto portateli nella sukkah, cioè erano più rigorosi e anche una cosa minima la mangiavano nella sukkah. Ukshenat nulo le Rabbi Tzadok, ochel pachot mikabetza. Quando diedero a Rabbi Tzadok, che era un grande tzadik, che era un kohen, e che ha digiunato per 40 anni prima della distruzione del Beit HaMikdash, pregare che non sia distrutto, gli diedero ochel del cibo pachot mi cabeza, meno del volume di un uovo, netalò be mappa, innanzitutto lo prese con un tovagliolo, non toccandolo con le mani, perché essendo un Kohen che mangiava anche chulin, anche cose che non sono sacre, però le mangiava solo in uno stato di purezza, e quindi faceva sempre l'antilati adai, in questo caso non lo poteva fare, allora lo mangiava con un tovagliolo, non toccando il frutto, e vachalò chutz la sukkah, e lo mangiò, questo volume, meno del uovo, fuori dalla sukkah, senza essere rigoroso su di se stesso, ve lo berech acharav, e inoltre non ha fatto la birkat amazon, cioè si trattava di pane, ma meno della cabeza, meno di questo volume, e non fece la birkat amazon perché sostenne che, come sostiene Rabbi Yehuda nel trattato di Berachot, che serve il minimo volume di cabeza per fare la birkat amazon. Ok? Comunque da qui impariamo che se un grande maestro e tzaddik come Rabbi Tzadok mangiò fuori dalla sukkah meno del volume, significa non è considerata una cosa troppo leggera mangiare qualcosa di minimo fuori dalla sukkah. È solo che chi può e vuole essere rigoroso come gli altri chachamim può anche fare questo ed è lodato. Chi non lo fa non è considerato che disprezza le mitzvot, diciamo così, perché vediamo che così si è comportato Rabbi Tzadok. Concludiamo qui e poi proseguiremo se Dio vuole.